Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Il nostro obiettivo come paese deve essere quello di iniziare a comunicare un progetto serio di futuro. Facendolo spalla a spalla, fianco a fianco, giovani, meno giovani, più esperti, avendo però molto chiaro quelli che sono i ruoli, i giovani devono avere la capacità di dimostrare di essere in grado di affrontare certi banchi di prova. Chi questi banchi li ha già affrontati deve avere anche però l'intelligenza di sapere che a un certo punto è il momento di mettersi a fianco e di dare alle generazioni entranti la possibilità di misurarsi. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con la 150esima puntata di Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. La necessità di un'alternanza generazionale, nelle parole del presidente dei giovani imprenditori di Confindustria, Jacopo Morelli, che ha aperto i lavori di Primavera Italia, la conferenza sui giovani talenti italiani, che oggi farà da perno alla nostra puntata speciale. La frase della settimana è copyright per la prima volta di un ministro straniero, la tedesca titolare del lavoro Ursula von der Leyen. Nel nord Europa ci sono posti di lavoro, mentre nel sud ci sono giovani in cerca di occupazione. Mettiamo insieme questi due fattori, questa è la base dell'apertura dell'Unione Europea. E sempre per il ministro tedesco, inserire i giovani in azienda significa garantire l'innovazione delle imprese. La Germania ha puntato su questo per ottenere aumenti di produttività. Il tutto mentre il numero uno di Volkswagen, Ferdinand Piech, annuncia di voler estendere anche all'Italia il programma di assunzioni per i giovani laureati disoccupati. Pura beneficenza? Beh, non lo pensiamo. Sicuramente c'è la certezza di investire in ottimo capitale umano qualificato. Oggi puntata speciale, lo anticipavamo poco fa, di Giovani Talenti che si trasferisce a Pesaro per raccontarvi Primavera Italia, conferenza dei giovani imprenditori del centro di cui Radio 24 è stata media partner, conferenza che segue di un anno Little Italy Big Italians. Nella prossima mezz'ora potrete ascoltare una sintesi degli interventi più significativi e delle discussioni più stimolanti di questa conferenza. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno. Per iniziare, sei brevi messaggi sotto forma di pitches. I primi quattro, tra cui riconoscerete anche alcune vecchie conoscenze di giovani talenti, arrivano dall'estero, gli altri due invece dall'Italia. I giovani connazionali espatriati hanno risposto alla domanda: l'Italia è un paese attrattivo per te e per i tuoi colleghi stranieri e quale apporto sei disposto a fornire? Ascoltiamo per iniziare Clelia Zattoni, 25 anni, analista di management negli Stati Uniti. Ora mi trovo a New York a lavorare come ingegnere nell'industria dei media e della televisione. Dopo qualche tempo all'estero, quello che posso dire dell'Italia, anche riportando il parere condiviso di alcuni colleghi internazionali, è che l'Italia è un paese bellissimo, che tutti amano e di cui tutti apprezzano storia e tradizione, anche in ambito industriale. Però questa tradizione si rivela un'arma a doppio taglio, poiché se da un lato si lega con un'innegabile eccellenza, soprattutto in alcuni settori, dall'altro è una tradizione restia all'innovazione, alla responsabilizzazione dei giovani e all'internazionalizzazione. Vorrei concludere questo mio breve intervento riassumendo quello che dal mio punto di vista si potrebbe migliorare in Italia. Primo, un'università più vicina alle aziende e all'industria, vicinanza che deve essere sicuramente favorita da strategie dello Stato e industriali. Secondo, maggiori opportunità per noi giovani di incontro e di dialogo. Come questo forum, sarebbe bello che giovani in Italia e all'estero avessero più spazio per essere ascoltati e generare nuove idee. Poiché la responsabilizzazione dei giovani porta all'innovazione e alla formazione di quelli che saranno gli imprenditori del domani. E ora un giovane manager all'estero, Maurizio Giardini, 42 anni, senior manager per Nokia in Finlandia. La percezione dall'estero dell'Italia è che l'Italia sia un po' prigioniera di una generazione di manager un po' fatta in casa, un po' comandoni, un po' urloni, però anche incapaci di affrontare i nodi che vanno sul loro tavolo, tipo la differenza di performance tra dipendenti o questioni di questo tipo. In Finlandia, diciamo, c'è una diversa capacità di essere top down, dare direzione, ma anche bottom up, fidarsi della gente, lasciare che abbia autonomia, che decida da sola. C'è un approccio alle persone che porta a trattarle come degli adulti, e questo significa richiedere però disciplina. Non disciplina come obbedienza, disciplina vuol dire capire qual è l'obiettivo, decidere che cosa si farà, comunicare quello che si fa e poi mantenere le promesse. Quindi la produttività come rete di promesse reciproche che adulti si fanno tra di loro e il manager come quello che dà la direzione, fa capire qual è l'obiettivo comune e però poi inchioda le persone alle promesse che si sono fatte tra di loro. Un altro elemento riguarda un po' il recruiting e l'approccio al mercato del lavoro, quindi un'asticella molto alta nel scegliere le persone in base al loro talento, in base all'energia, alla capacità di fare la differenza e non tanto in base all'esperienza, e poi trattare le persone in maniera uguale, uomini, donne e così via. E dall'altro canto però una rete protettiva, cioè per chi non è adatto a essere con noi in questa azienda in questo momento, trovare delle vie di uscita. Considerate che la Nokia ha licenziato 10.000 persone in Finlandia quest'anno, eppure in più rispetto ai requisiti di legge tutti hanno avuto 6 mesi di stipendio, molti un anno. Chi si è messo in proprio ha avuto un fondo perduto per poter iniziare la propria attività. Molti comuni ci hanno messo del loro anche in questo. La Nokia ha creato un mercato del lavoro informatico in cui tutte le aziende potevano unirsi, vedevano i nostri sistemi informativi interni, quindi potevano intervistare e assumere velocissimamente persone in mobilità senza intermediari. Quindi in questo senso c'è questo sforzo, da una parte assumere con un'asticella alta, richiedere responsabilità, dall'altra aiutare a riformarsi le persone che possono probabilmente avere più successo da un'altra parte. Da Maurizio Giardini a Fabrizio Capobianco, 41enne imprenditore innovativo in Silicon Valley, presidente di Funambole, nonché vecchia conoscenza di giovani talenti. L'Italia è un paese molto attrattivo quando si parla di andare in vacanza. Tutti qui in Silicon Valley parlano dell'Italia bene, parlano dell'Italia come un grande posto da visitare. Parlano bene di ciò che è arte, tutto ciò che è musica, tutto ciò che è paesaggi, spiagge, cibo, vestiti e così via. L'Italia è un grande paese quando si parla di attrarre persone dall'estero e questo è un grande vantaggio che abbiamo. Purtroppo, secondo me, col turismo e basta, non riusciamo a uscire dalla palude in cui siamo. Secondo me in questo momento dobbiamo lanciare qualcos'altro sopra il turismo. Quel qualcos'altro per me è high tech, le alte tecnologie. È inutile che ci forziamo a competere col resto del mondo sul manifatturiero, su certe cose che richiedono del lavoro di basso costo. Dobbiamo salire e puntare sulle alte tecnologie. L'high tech, io vengo dalla Silicon Valley, software. Perché software? Perché noi siamo il paese della creatività. E siamo i più bravi al mondo in quello che abbiamo appena detto, il mangiare, il design, le architetture e i vestiti e così via. Nei mestieri di creatività, come il software, siamo leader al mondo. E secondo me possiamo essere leader al mondo anche nel software. Lo stiamo dimostrando con Funambole e anche la prossima azienda che sto facendo, che l'Italia può essere leader al mondo nello sviluppo del software, nelle altre tecnologie, perché siamo creativi, lavoriamo tanto, siamo bravi, in questo momento siamo anche a basso costo, quindi è un vantaggio competitivo. Per me, per far uscire l'Italia dalla palude in cui è, dobbiamo investire sulle start-up, dobbiamo investire sulle alte tecnologie. Siamo bravi come gli altri, se non di più. Non ci manca la capacità di rischiare e abbiamo anche un paese bellissimo che è attrattivo, che ha un vantaggio. E ora, sempre dagli Stati Uniti, Christian Ferri, 29enne imprenditore e studente MBA negli Stati Uniti, anche lui una nostra vecchia conoscenza. L'Italia non è un paese attraente né per me né per i miei coetanei con gli Stati Uniti. Ed è principalmente così per due motivi. Il primo è perché è inefficiente. Ci sono un sacco di tasse, un sacco di risorse che vanno a finanziare una macchina che è fallace, che è difettosa. Se fosse un'azienda privata in un mercato libero, ormai sarebbe in bancarotta da molto molto tempo. E due, perché è molto burocratica, è molto difficile viverci, difficile lavorarci e poi specialmente difficile avere un'attività nel territorio. Cosa possiamo fare per migliorare il paese? Beh, innanzitutto per me il governo deve soddisfare 4 criteri principali. Il primo è che deve capire che le persone sanno meglio del governo. Il secondo è che le persone gestite di meno sono le meglio governate. Il terzo è che il governo deve essere un timone e non il motore. E il quarto è che il governo deve essere considerato e valutato come un'azienda privata e deve essere valutato dai suoi risultati. Azioni specifiche? Beh, due principali. La prima è snellire la macchina. Agilità e flessibilità. Il secondo è puntare al nazionalismo. Nessuna eccezione, nessuna preferenza, nessuna persona speciale, nessuna regione speciale. Alla domanda «Disegna la tua primavera italiana, quale apporto intendi fornire?» hanno invece risposto i giovani che sono rimasti in Italia o sono rientrati. Francesco Ferri è uno start-upper imprenditore di prima generazione. Che cosa ci vuole per fare in modo che i giovani siano protagonisti e che quindi questa primavera italiana riparta? Pensate tre cose. La prima, un fisco e una riforma del mondo del lavoro veramente premiante per i giovani, in cui ci sia un cuneo contributivo rivisto per i giovani, in cui ci sia la possibilità di attrarre pagandoli di più i talenti dall'estero, in cui ci sia una tassazione per gli under 35 privilegiata, in cui ci sia la detassazione del welfare aziendale per i giovani che decidono di mettere su famiglie e che quindi hanno bisogno di essere aiutati. Secondo pilastro, è uscito il decreto sviluppo a favore delle start-up? È sufficiente? No. L'ecosistema si deve ancora creare per fare in modo che veramente l'imprenditorialità giovanile dei giovani in Italia sia veramente stimolata. E spetta a noi giovani imprenditori incubare le start-up, fare in modo che veramente le start-up nascano come segno di rinnovamento non solo nell'ICT ma nelle arti e nei mestieri. Il terzo pilastro, forse il più provocatorio, le quote rose e le quote giovani. Forse è giunto davvero il momento di scardinare lo status quo. Io ontologicamente sono contrario alle quote rose e alle quote giovani, ma esiste purtroppo il fenomeno dell'adverse selection, cioè persone di una certa fattispecie scelgono persone a loro simili. E forse è giunto davvero il momento, anche temporaneamente, di stabilire di fare quote rose e quote giovani per mettere i giovani di talento e le donne di talento veramente a capo delle nostre organizzazioni, delle istituzioni e della politica. Infine il mondo della ricerca con Matteo Vignoli, 33enne ricercatore all'Università di Modena e Reggio Emilia, rientrato da Stanford. Quello che vi racconto oggi è una storia di fallimento e di speranza. Il fallimento è mio e la speranza spero di tutti gli altri. Ero a Stanford 3 anni fa e torno nel mio dipartimento con grande energia e lancio questi programmi sul design thinking in cui gli studenti collaborano con le imprese. Alla fine del progetto, una grande impresa internazionale nel ramo automotive apprezza una delle idee che erano state sviluppate come soluzione dagli studenti e gli dice: se ci state, vi diamo €1 milioni per fare un'impresa. Gli studenti hanno tentennato e hanno detto: e se falliamo? Ovviamente l'impresa ha detto: non siete gli studenti giusti. E per me è stato un grande fallimento. E da quel fallimento ho tratto, come dicono gli americani, l'energia per seguire una visione che avevo maturato nel mio periodo a Stanford a 10.000 km dall'Italia, cioè che il nostro paese, oltre a dare opportunità ai giovani dopo l'università, debba investire anche in qualcosa che è l'educazione all'innovazione. Come? Con 3 ingredienti. L'interdisciplinarietà, quindi la possibilità di essere esposti a collaborazioni con discipline diverse dalla propria. Il secondo, un metodo didattico, pedagogico, che rispetti l'innovazione, la creatività e la persona come centro. E terzo, con un processo di innovazione come il design thinking, che permetta a studenti, imprenditori, società di trovare soluzioni che siano centrate sui bisogni dell'uomo. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani immigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata speciale da Pesaro vi stiamo raccontando i momenti più significativi di Primavera Italia, conferenza che i giovani imprenditori hanno organizzato una settimana fa con l'obiettivo di inquadrare azioni pragmatiche tese a recuperare e a migliorare l'attrattività dell'Italia verso i suoi migliori talenti e quelli stranieri. Questo unendo le forze sia dei giovani italiani che vogliono cambiare e innovare da dentro il paese, sia dei giovani espatriati che intendono fornire il proprio contributo attivo e di idee. Giovani Talenti era lì per voi. Ripartiamo dunque con la tavola rotonda che ha concluso i lavori, incentrata sul dilemma che fa da sfondo al nostro programma: tornare in Italia o andarsene. In audio da Berna, Giulio Sovranna, 30 anni, espatriato in Svizzera, nonché ideatore del progetto Goodbye Mamma per spingere i giovani a fare esperienza all'estero. Sul palco Lorenzo Pompei, 38 anni, che è in procinto di lanciare la Fonderia dei Talenti per incoraggiare il rientro dei giovani professionisti grazie alla legge contro esodo. Per iniziare il video di Goodbye Mamma. L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo dove forse vige una mammocrazia. Giovani fino all'età di 30-33 anni vivono sotto il governo della mamma, rinunciando tanto ai loro diritti quanto ai loro doveri. Beh, aiutaci a dire basta. Aiutaci a dire Goodbye Mamma. Idee, consigli ed esperienze di chi ha deciso di lasciare l'Italia. Giulio, cos'è Goodbye Mamma? È effettivamente un progetto che aiuta gli italiani a lasciare l'Italia, quindi è un progetto che ho ideato più o meno ormai 3 anni e mezzo fa, nato con l'idea della scrittura di un libro, Goodbye Mamma, che si è trasformato nel corso del tempo. È un libro, è un team di persone, perché siamo 20 persone effettivamente dietro a questo progetto. È un libro scritto a più mani, quindi tutti espatriati, tutte persone che hanno avuto esperienza all'estero dall'età di 20 anni fino a 60-70 anni, ed è un percorso che segue tutta la vita. Quindi non sto parlando adesso di giovani che devono espatriare, non sto parlando di donne, uomini, ragazzini, progetti Erasmus. Il progetto segue tutte le fasi della vita, e questo è il progetto che vuole fare Goodbye Mama: aiutare le persone a trovare delle opportunità all'estero. Non siamo così estremi, non voglio dire tutti devono andare via. L'idea di un ritorno, io mi rifaccio sempre al mio collega, chiaramente molto più in alto di me, architetto Renzo Piano, che diceva partire per poi tornare. Quindi va bene sì partire, ma una partenza per imparare, per acquisire dalle culture di altri paesi e poi tornare, restituire, che è quello che dovremmo fare e che è quello che sta cercando di fare Lorenzo dall'altra parte. E in questa circolarità, in effetti il vostro è un discorso più complementare che contrapposto, se vogliamo, c'è il progetto di Lorenzo Pompei, la Fonderia dei Talenti, che ora ci spiegherai, Lorenzo. L'idea è semplicemente quella di... Io sono stato all'estero 7-8 anni, vissuto in 4 paesi, sono tornato, voglio dare un messaggio di ottimismo, perché devo dire il mio feedback di quello che ho sentito è da tirarsi le mani nei capelli. La situazione è dura, non solo in Italia, in tutta Europa, questo è un po' il preambolo. Non voglio che però la realtà venga dipinta peggio di quello che è. Quindi sono tornato, ho preso un anno sabbatico, mi sono dato questo obiettivo, non da solo, anche con altre persone che vedrete, di creare una fondazione not for profit che è stata costituita a Torino a luglio, con l'obiettivo questo, in pratica cercare di abbattere le barriere che ci sono tra i 300.000 talenti italiani all'estero. Sono più o meno corrispondenti a una provincia come Reggio Emilia, 300.000 persone, immaginatevi una provincia con 300.000 talenti, quindi vuol dire laureati, highly skilled, secondo la definizione dell'OCSE dati 2005, questo è un dato molto vecchio, probabilmente oramai dopo la crisi siamo probabilmente arrivati al 500.000, questo rappresenta il 5-10% del PIL italiano che è scappato. L'idea è questa: oggi ci sono dei bisogni, ci sono questa comunità di italiani all'estero che l'Italia ha dimenticato, che non è detto che vogliano tornare, ma va bene lo stesso, rimanete dove siete all'estero, ma cercate di contribuire. Quindi qua ho messo due esempi in cui ci sono persone sia in Italia che all'estero che possono interagire tra di essi, tramite la fonderia questa relazione potrà funzionare. La legge contro esodo, approvata dal Parlamento italiano, dà questo: per una persona che guadagna con un netto in busta di 3.000 euro, tramite questa legge che beneficia chi torna dall'estero, questa è una legge dello Stato con tutti i decreti attuativi in vigore dal gennaio 2011, fino al 31 dicembre 2015 riuscirà a incrementare, e questo è prudenziale, è una stima, in realtà è di più, il 40% il netto in busta paga, addirittura per le donne è superiore perché diventa imponibile solo il 20% del reddito. La nostra comunità è questa. Comunque la comunità sarà online tra metà dicembre e metà gennaio, è fully funded, quindi non ci sono ostacoli al momento che ci impedirà di andare avanti, e servirà per fare una geolocalizzazione a livello mondiale di tutti i talenti italiani. Abbiamo ottenuto anche l'aiuto di una software house americana. Riusciremo questa comunità a farla vedere alle aziende italiane che sono interessate a assumere in Italia, sfruttando la legge contro esodo, persone che hanno un global mindset, una mentalità. E questa, diciamo, è la nostra risposta. Non è solo per far tornare, concludo qui il mio intervento di 3 minuti, ma è anche quello di favorire la circolazione di talenti, perché l'iniziativa sarà non solo attirare verso l'Italia, ma anche far partire chi vuol partire tramite questa geolocalizzazione su una cartina. Mi pare capire su una cosa voi siete completamente d'accordo, che la circolazione di talenti è fondamentale a questo punto per il paese. Esatto. Faccio due domande anche qui complementari. La prima a Giulio: qual è il maggiore blocco che frena i nostri giovani dall'internazionalizzare? Il blocco in uscita è sicuramente una mentalità italiana molto bloccata, molto legata al vicinato, quindi si cerca sempre lavoro, si cerca sempre di spostarsi nei limiti della zona conosciuta, quindi si ha sempre questa concezione, a parte nella tipica migrazione sud-nord, si cerca sempre qualcosa nei luoghi che si conoscono. E fare un passo oltre frontiera è sicuramente qualcosa di molto grosso, però dobbiamo renderci conto che oggi chi si sposta da Roma a Milano o dal sud al nord o da una parte all'altra, da est a ovest dell'Italia, sicuramente perde molto più tempo che nel muoversi da Milano a Londra, da Milano a Parigi, da Milano a Berlino. Oggi le connessioni sono così rapide che le distanze effettivamente sono più rapide. È un concetto che bisogna togliere questa idea di provincialismo che abbiamo ancora, che vedo ancora nelle persone che non hanno mai fatto un'esperienza all'estero, che è un qualcosa per me d'obbligatorio, deve essere obbligatorio partire, deve essere obbligatorio vedere cosa c'è al di fuori dell'Italia per poter crescere, per poter, non dico rimanere all'estero, ma poi tornare. Ed è questo il punto più importante, perché se non vediamo cosa c'è fuori, non cambieremo mai niente dall'interno. Non sono quelli che rimangono in Italia che potranno cambiare il paese, ma sono quelli che sono partiti e sono tornati e sanno quali sono i punti da cambiare. Chi rimane senza spostarsi non ha, per me non ha, non porta nessun valore aggiunto. E Lorenzo, perché è difficile farli tornare? Quindi io questo sono d'accordissimo con lui su questo punto, bisogna partire assolutamente e anche tornare, se voglio rimanere o rimanere anche all'estero. Le difficoltà nel tornare è perché, a parte il fattore economico, c'è un fattore tempo. Quando si rimane all'estero tanti anni, man mano con gli anni, dopo 4, 5, 6 anni, penso, abbandonano man mano il contatto con l'Italia perché perdono i contatti con gli amici di università, col mondo aziendale italiano che nel frattempo evolve. Io stesso sono stato nel mio piccolo poco all'estero, ma quando poi sono tornato mi sono reso conto che l'Italia era cambiata, era evoluta. Cioè l'Italia, nonostante quello che tutti i pessimisti dicano, è un paese che comunque sta andando avanti, tant'è che sono tornato, trovo un paese molto spumeggiante. Poi questa è la difficoltà, nel senso che c'è la barriera che cresce direttamente proporzionale al tempo che si sta fuori, perché ci sono le community Facebook, torno il weekend in Piemonte ad andare a mangiare nelle Langhe, a prendere funghi con gli amici, ma poi si perde il contatto con la vera Italia, l'Italia delle aziende, l'Italia che evolve, con i partiti politici, se uno vuole lanciarsi in politica. Forse questa cosa, secondo me, è la grande difficoltà. E concludo appunto, questa fondazione è indirizzata, come la legge, a tutti, non solo agli italiani, ma a tutti. La legge è per tutti i cittadini dei 27 paesi dell'Unione Europea, ma ovviamente è aperta questa fonderia, la chiamiamo, a tutti i cittadini del mondo che hanno qualche connessione con l'Italia, che vogliono utilizzare questa piattaforma per tornare in Italia. Spesso il problema è, in un paese dove tutto funziona a conoscenze, dicono non ho più contatti con l'Italia, non conosco più nessuno, non so come trovare lavoro. Esatto, questa community, questa platform servirà per far appunto alle aziende vedere questi talenti all'estero e ora con la legge contro esodo diventare competitivi in materia retributiva, ma anche talenti che vogliono connettersi all'Italia, collegarsi tra loro. Uno che sta a Silicon Valley potrà collegarsi con uno che sta a Beijing perché vedono che sta lavorando su un qualche cosa che eventualmente possono fare collaborazioni tra loro senza passare geograficamente dall'Italia. Ecco, diciamo, non c'è il fattore geografico che è importante, per questo sono d'accordo con lui nel dire che le frontiere non esistono davvero più. Giulio, tu ci torneresti in Italia prima o poi? Io vorrei limitare invece il ritorno degli italiani in Italia e vorrei aumentare la partenza degli stranieri verso l'Italia. A me non interessano gli italiani, mi interessa qualcuno che porti idee diverse, una mentalità diversa, che entri nel sistema. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di dicembre è: una maggiore e più concreta integrazione università-mondo del lavoro può evitare la fuga dei talenti dall'Italia, favorendo canali sani e meritocratici d'ingresso con esperienze reali, fin da studenti, o serve anche altro? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.